Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Questi politici bisogna attaccarli alla radro e a guidare la radro, sai che ci mettiamo Giannino ingazzato con una frusta a 9 code. Alessandro Milan, sempre breve e circonciso. Prendi 2 elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, anche oggi attenti a noi due, con il suo Oscar Giannino, un abbraccio a distanza da Alessandro Milan, ma eccoci qua per commentare le notizie del giorno e per approfondire qualche tema con qualche ospite. Iniziamo come sempre dai santi del giorno in questo martedì 29 dicembre. Oggi in particolare è un santo che ha un certo peso nella storia d'Inghilterra, ma è un riferimento per i politici e per gli uomini di cultura, perché oggi è Santo Maso Becket. Santo Maso Becket pagò con la testa nell'Inghilterra del 200 la sua voglia di dire no alla politica, al re Enrico II, e a furia di dirgli di no Enrico II mandò le sue guardie e lo fece uccidere, famoso, no? L'omicidio nella cattedrale è appunto quello di Tommaso Becket, uno dei più famosi testi teatrali. E non sempre, voglio dire, c'è questa voglia di dire no ai politici, e quindi per questo è diventato un santo che conta, ed è un santo che divide ancora la storia in Gran Bretagna, perché ovviamente stiamo parlando di qualcuno che è stato ucciso da un re, però più di 2 secoli prima che poi con Enrico VIII la Chiesa anglicana vedesse l'affermazione da parte della politica appunto sulla Chiesa, e ancora oggi in Gran Bretagna si discute, insomma, sul fatto se Thomas Becket non fosse un po' troppo proclive al Papa. Ma chiuso questo festeggiamento del giorno, vediamo un pochino, prima di arrivare ai temi di oggi, su che cosa eventualmente potete telefonarci. Allora, noi abbiamo oggi due ospiti su 2 questioni. La prima è per tentare di capire meglio cosa diavolo sia successo davvero e cosa stia succedendo intorno alla squadra di calcio femminile, di calcetto anzi a 5, all'Ocri. E qui avete letto, avete sentito che l'andrangheta locale ha chiesto al presidente: deve chiudere, basta, levatevi di torno. Quindi abbiamo con noi tra pochissimo il sindaco di Locri e tenteremo di farci spiegare qual è la sua opinione. Io ne ho una, a dirvi la verità, non tanto perché non mi permetterei, su cosa sta succedendo a questa squadra a Locri. Io ho l'impressione che nei campionati minori, in quelli su cui c'è meno attenzione, ma su cui poi invece localmente centinaia e centinaia di migliaia di persone, milioni di persone tutte le domeniche vivono attraverso i propri figli, familiari e così via, l'esperienza dello sport, la presenza, l'infiltrazione attraverso non solo le scommesse, a dirvi la verità, della malavita, delle grandi reti malavitose, della 'ndrangheta in Calabria, della Camorra, della Sacra Corona Unita, sia molto più forte di quanto non descriviamo nei giornali o in televisione. Può essere che io mi sbaglio, se ci volete dare un'opinione su questo chiamateci all'800240024. Poi abbiamo un secondo ospite più avanti, e riguarda Roma. È un ex vice sindaco di Roma, Walter Tocci, ed è un vice sindaco che ha scritto un ebook di cui parleremo con lui, che va in profondità su, insomma, la responsabilità di quello che non ha funzionato anche nei governi della sinistra in tanti anni e perché Roma è così, così come dicono i titoli dei giornali di oggi. Quindi chiamateci per dirci, secondo voi Tronca riuscirà, il super commissario Tronca, a risolvere qualche cosa? Ecco, quando dico qualche cosa intendo per esempio che sui giornali di oggi trovate, per esempio sul Messaggero ovviamente, che a Roma mancano 500 vigili per Capodanno, anche con il supercommissario Tronca, è un anno dopo, e c'è poco da fare, non si riesce a venire a capo dei problemi di come organizzare un Capodanno da grande capitale mondiale, ma fossero questi naturalmente i problemi di Roma. una cosa che mi ha fatto sbellicare dalle risate è leggere l'ordinanza delle esenzioni a Roma per il traffico a targhe alterne. Lo sapete, è uno dei grandi temi sui giornali di oggi, ne parlerò per un minuto adesso. Comunque, a pagina 2 del Fatto trovate queste 33 categorie di esenzioni dell'ordinanza comunale nel percorso giorni alterni, targhe alterne, la circolazione a targhe alterne, e praticamente non voglio dire che possono circolare tutti, ma quasi, perché siccome in una delle categorie c'è l'esenzione per tutti coloro che dovendo lavorare per esigenze di turno di lavoro non possono usare i mezzi, voi capite che a quel punto questa è la famosa, è la categoria 33, ma poi c'è di tutto naturalmente, c'è per cerimonie di qualunque tipo, per emergenze sociali, capite che le emergenze sociali è qualunque cosa. Allora faccio questo esempio non perché me la voglio prendere con il povero Tronca, per così dire, però effettivamente questa questione del traffico, molto dibattuta sui giornali anche oggi perché domani c'è l'incontro col governo, è una questione piena di totali contraddizioni, a dire la verità. Pensare che noi andiamo avanti da decenni con questi provvedimenti, targhe alterne oppure blocco totale come a Milano, ogni comune fa come crede, come se poi il PM10, cioè le polveri sottili, si fermassero ai confini di un comune che prende una decisione oppure l'altra, dà l'idea di un paese che su questo fa tante chiacchiere ambientaliste, chiacchiere, ma poi alla fine una misura vera non ce l'ha. Quindi a me piace il fatto che forse per una volta siamo in presenza, almeno così annuncia Repubblica, del fatto che nasce un fronte di amministratori locali, governatori e sindaci, che alla convocazione del governo domani, dice Repubblica pagina 3, presenterà un piano in 10 punti di sindaci e governatori chiedendo regole uguali per tutti sui trasporti pubblici, riscaldamento, traffico su ferrovia, auto elettrica. Bah, vedere per credere, per così dire, perché io attualmente vedo solo delle misure disarticolate in cui ciascuno fa finta di essere più ambientalista di qualcun altro. Dopodiché poi si assumono i blocchi che si aggirano facilmente con autodichiarazioni di ciascuno dicendo io ho un funerale, io ho un matrimonio, io ho la comunione di mio figlio, eccetera eccetera eccetera, no? Poi per esempio, perché in alcune città a Roma si blocca anche l'automobile Euro 5? Attenti, Euro 5A, se avete un Euro 5B non siete colpiti dalle targhe alterne a Roma, mentre per esempio a Frosinone c'è un blocco per finta perché blocca solo le auto Euro 2, Euro 3, cioè i 14, e così via. Potrei continuare molto molto a lungo. Allora, questo è sicuramente uno dei temi che trovate sui giornali di oggi. Ricordo a tutti che non si ferma intanto però la protesta per la risoluzione delle quattro banche dopo il decreto legge del 22 novembre da parte del governo. Anche ieri sentiamo, c'è un audio, proteste fuori dalla sede della Banca Popolare dell'Etruria. Ecco, c'è poco da fare, il governo non riesce a schiodarsi da questa protesta, non sarà di massa, quello che volete voi, ma insomma le contraddizioni dell'intervento del governo sulle banche continuano a essere molto forti. Da questo punto di vista segnalo a voi tutti l'esordio, in realtà, come editorialista, commentatore economico su Repubblica, di un giovane giornalista molto promettente. In realtà lo conosciamo da anni perché ha scritto per il Financial Times in questi anni, era il coordinatore dei commenti economici per alcune materie sul Financial Times, quindi si è fatto le ossa su prestigiosissimo quotidiano economico e finanziario internazionale, e esordisce Repubblica con un commento proprio sul tema del decreto da parte del governo sulle banche. Dice quattro errori da parte del decreto del governo. L'autore, questo giovane giornalista appunto, che è già una promessa realizzata, non è una promessa del giornalismo, si chiama Ferdinando Giuliano. Io mi trovo molto d'accordo su i quattro errori che dicono un errore non difendere impianto, dicendo anzi che la colpa è dell'Unione Europea. L'Unione Europea non c'entra niente, avete deciso voi in questo metodo, come si capisce anche dalla lettera dei commissari europei, l'Europa non vi ha imposto nulla. E poi si prosegue con gli errori soprattutto nel coprire le responsabilità dei regolatori, e questo devo dire la verità, anche dopo l'intervista di Taddei, Filippo Taddei, responsabile economico del PD ieri al Corriere della Sera, mi sembra la piega che stanno prendendo questi avvenimenti, cioè il Quirinale da una parte ma anche il governo dall'altra capiscono che forse fare per esempio la commissione parlamentare d'inchiesta sulla responsabilità della Banca d'Italia della Consob potrebbe creare un bel po' di guai nel pregresso, perché poi se andiamo troppo indietro non c'è solo l'anno di governatorato di Ignazio Visco, c'è anche Draghi negli anni, allora forse è meglio evitare. Allora questa cosa detta da Taddei ieri, ma no, io mi fido della vigilanza, sono stati al massimo piccoli errori. Io non credo affatto che sia andata così, c'è stata una totale connivenza di Consob e Banca Italia verso piazzare titoli a buon mercato da parte delle banche a chi non doveva comprarli, perché non dovevano essere riservati a quel tipo di clientela. Ci sia stata una pratica connivente per molti anni verso manchevolezze, truffe, eccesso di sovraffidamento degli amministratori e verso società loro collegate in moltissime banche italiane, e mi preoccupa molto quest'area del volemose bene che si sta improvvisamente espandendo nel nostro paese, sempre pronti a dire la colpa poi è tutta dell'Europa, come fanno oggi per esempio MF e Italia Oggi. È un polverone secondo me, e allora viva il fatto che ci sia un giovane giornalista come Ferdinando Giuliano che a Repubblica esordisce con un commento di questo tipo. Allora andiamo a vedere un secondo questa vicenda, appunto, che, di cui nel dopo Natale è rimbalzata con scandalo e sdegno sui giornali italiani, cioè questa sfida che l'Andrangheta a Locri in Calabria ha lanciato nei confronti di questa squadra di calcetto Serie A femminile, minacciando il presidente Ferdinando Armeni. Abbiamo un audio anche del presidente dello Sporting Locri, che era ospite ieri a Si può fare, condotto da Alessio Maurizio qui su Radio 24. Sentiamo Ferdinando Armeni, il presidente della società. Si sta purtroppo infangando quello che è il nome di Locri e della Calabria, perché per questi quattro sciacalli che hanno operato tale gesto. Però purtroppo, visto che hanno toccato i bambini, quindi vuol dire che gente che gioca senza regole, ci hanno messo davvero in grosse difficoltà. Purtroppo così non ci lasciano capire contro chi lottiamo, soprattutto perché possono essere invidiosi di dove è arrivato e di quello che fa questa squadra. Può essere il fatto che le ragazze stanno in un ostello confiscato alla mafia. Non lo so. Allora, come avete sentito questo audio del presidente dello Sporting Locri, Ferdinando Armeni, forse si inizia a capire, dico forse perché io ero rimasto perplesso dopo tre giorni a non capire quali fossero le ragioni di queste minacce. In realtà non avevo capito che cosa facesse il presidente di preciso come imprenditore, e anche su questo i giornali non hanno grandi elementi di approfondimento. Sappiamo che è un commerciante, va bene, ma di che cosa? È emerso ieri che uno dei motivi per cui la cosca locale ndranghetista minaccerebbe appunto i familiari del presidente del Locri Sporting femminile è forse l'utilizzo di una palazzina sequestrata a una cosca locale per ospitare le giocatrici. Però in realtà ne sappiamo molto poco. E io continuo a non capire come si possa far finta di cadere dal pero di fronte al fatto che nei campionati minori femminili, maschili, mica solo, in realtà, da quello che consta a me, l'infiltrazione e la pressione delle reti criminali è molto forte, non è un avvenimento episodico. Però abbiamo con noi il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese. Grazie di aver accettato il nostro invito, sindaco. Grazie per l'invito, buongiorno. Allora, lei di questa vicenda A, che cosa ha capito, e B, secondo lei è un caso così eccezionale o non è invece l'espressione di una presa forte che lei ha anche denunciato più volte in passato, che la 'Ndrangheta nel vostro caso esercita, ma esercita anche sullo sport, perché mica non si occupa di una cosa di tanto rilievo? Lei che dice? Ma guardi, io sono stato abbastanza chiaro sin dall'inizio di questa vicenda. Io sinceramente non riesco a vedere la presenza della 'Ndrangheta, che purtroppo esiste anche in questa città, e nell'interesse dello Sporting, la squadra di calcio femminile. Ah, lei dice è un'altra vicenda. Guardi, io sinceramente io sono stato chiaro sin dal primo momento, e quando ho visto che arrivava questo fiume di solidarietà, sono uscito anche pubblicamente con una nota, utilizzando anche social network, Facebook, che utilizzo molto, dicendo che probabilmente si tratta di un gesto di un soggetto psicopatico, qualche invidioso, ma nient'altro, cercando di portare la calma. Ma scusi, perché il presidente avrebbe detto la cedo anche gratis? Cioè è facilmente impressionabile sto presidente? Ma probabilmente sì, avevo ricevuto delle minacce con dei biglietti, tra l'altro delle minacce un po' inatipiche anche rispetto al modo di fare della 'Ndrangheta. E io è la prima volta che vedo della 'Ndrangheta scrivere biglietti, li scrivo al computer, li scrivo in perfetto in italiano, insomma. Veramente delle perplessità ci sono, l'abbiamo manifestato in sintesi dall'inizio. Tra l'altro io quello che ho chiesto è che va bene la solidarietà del mondo dello sport e della politica, ma noi abbiamo bisogno di una risposta da parte della Procura della Repubblica, abbiamo bisogno di un nome e un volto, altrimenti ci facciamo tutti una figuraccia. E, sinceramente non l'ho definita per l'ennesima volta nel Tritacarne nazionale per eventi negativi, ma nessuno si preoccupa poi di portare la solidarietà ad una popolazione, ma non è solo Loghi e la Mobile, dove si vive male, dove c'è la disoccupazione più alta, la percentuale più alta d'Italia, e quindi nessuno, la politica non si preoccupa di questo, ci preoccupiamo che una squadra riceva un bigliettino, che è una cosa negativa, ma mi sembra capire prima quello che è successo. Allora, lei, io apprezzo molto, naturalmente si sta esponendo come amministratore, perché è chiaro che potrebbero dire, beh, il sindaco adesso è più preoccupato del fatto che Locri perda la faccia piuttosto che no. Però, diciamo la verità, signor sindaco, io da lontano, da giornalista, pure ci sono troppe cose di questa vicenda che per il momento, non dico che non tornino, ma ci sono un po' incomprensibili, sono un po' anomale. Le faccio una domanda, ma l'imprenditore presidente, cioè Ferdinando Armeni, che abbiamo sentito prima, è una persona specchiata di cui nella sua attività economica, professionale, non ci sono precedenti di... No, assolutamente. Assolutamente. Un imprenditore che gestisce un monomarca di un gestore telefonico, insomma, nota in Italia, ma nient'altro, nessun problema, mai sentito, mai... E invece sul fatto che la 'Ndrangheta, ma insomma le grandi reti criminali, non sono nel sud, ma insomma, innanzitutto nel sud, non abbiano una presenza, un'infiltrazione anche nel mondo delle attività sportive, quella diffusa nelle serie più basse, lei che pensa? Ma probabilmente sì, cioè, non so quanto ci possa essere nel calcio a 5 femminile. Oggi l'Italia ha scoperto che esiste il calcio 5 femminile. Esatto, lei dice magari dove si muovono interessi più pesanti anche sul territorio. Guardi, l'Italia ha scoperto che esiste il calcio 5 femminile oggi, questa vicenda. Oggi le dice. Va bene, allora intanto noi ringraziamo il sindaco perché ci ha dato questa, come devo dire, un segnale dissonante, ma che però contribuisce forse a capire più di tanto altro, perché c'è la slavina dell'informazione in cui tutti ripetono le stesse cose, che io temo molto, a dire la verità. Cerchiamo di capire meglio questa vicenda invece di limitarci allo scandalo. Grazie, grazie al sindaco. Torno un secondo prima di passare al tema di Roma, ancora al tema del traffico, per dire, vi segnalo una cosa che a me stamattina mi ha fatto girare abbastanza le scatolette, per così dire, perdonate, ma io poi sono appunto un imperdonabile mercatista, liberista, non mi piace pensare che lo Stato sia la miglior soluzione per tutto. E allora, quando ho letto sul Corriere della Sera oggi che il ministro Delrio, che peraltro è un ministro molto stimabile secondo me, annuncia di nuovo, per dare una risposta agli amministratori locali che sono esasperati del fatto che tutti li criticano se prendono le misure quando c'è l'eccesso di polveri sottili nelle città, e ognuno la prende diversa, gli dice: ma noi domani all'incontro a cui li abbiamo chiamati al governo, gli amministratori locali, tireremo fuori un'idea grandiosa. E qual è l'idea grandiosa? Che adesso Cassa Depositi e Prestiti, che è praticamente la soluzione di ogni cosa, avete le zanzare in casa, ci pensa Cassa Depositi e Prestiti, perché tanto sta fuori dal perimetro del debito pubblico, adesso Cassa Depositi e Prestiti si mette a comprare i treni per affittarli alle regioni per 4 miliardi e mezzo di euro. Allora, siccome Cassa Depositi e Prestiti dovrebbe garantire la bad bank per i 200 miliardi di crediti deteriorati nelle banche italiane, dovrebbe intervenire per salvare l'Ilva che i magistrati pugliesi hanno sequestrato senza indennizzo ai privati e che adesso espone l'Italia a una procedura di infrazione europea per eccesso di aiuti di Stato, nel frattempo l'azienda sta praticamente chiudendo perché ha perso mercato e adesso ci dovrebbe pensare CDP, cioè per ogni cosa il governo dice che ci deve pensare CDP, e a questo punto anche comprare i treni, perché naturalmente le regioni e le aziende di trasporto pubbliche, non privatizzate, non messe insieme, perché per carità di Dio, mica si può toccare le oltre 10.000 società pubbliche, le IRI locali, adesso arriva CDP che avrebbe soldi anche per fare questo. Io devo dire la verità, non ci credo, ma soprattutto una politica la cui arma finale oramai è sempre dire CDP, è una politica che secondo me grandi idee non ne ha, ecco, poi magari mi sbaglio io, però io sono convinto che sia così. Pubblicità? Allora, eccoci qui tornati in diretta, attenti uno due, ma solo Oscar Giannino, per qualche giorno ancora in attesa che torni il mio co-cardinale, perché lui mi svolta chiamando così, Alessandro Mila. Prima di andare a Roma, il nostro secondo ospite, flash ancora politici su articoli che trovate oggi sui giornali, sulle diverse questioni. Innanzitutto trovate su ogni giornale, da diversi punti di vista, l'approfondimento sulla espulsione combinata dalla rete Movimento 5 Stelle alla senatrice Serenella Fucsia, per giustificazione formale essere indietro nel restituire i soldi come convenuto, regola fondante nel movimento, parte essenziale della retribuzione va retrocessa perché finanzia un fondo di microcredito volto poi all'occupazione e all'impresa. Enormi polemiche, vi segnalo tanto solo per dire e per rispondere a chi dice critichi sempre il governo perché, dice un ascoltatore, fa il gioco dei 5 Stelle. No, guardate, io parlo di diversi argomenti sulle cose che mi convincono o meno e vi invito a riflettere, non faccio il propagandista di nessuno. Comunque, guardate su Corriere della Sera, c'è, a proposito di questa vicenda, le 36 foto di espulsi dal Movimento 5 Stelle fino a questo momento per ragioni varie e diverse. E quindi da questo punto di vista io credo che finché non avremo una legge in attuazione della Costituzione sulle grandi interne dei partiti e gli obblighi di trasparenza, articolo 49 come il 39 e quello dei sindacati, noi dovremmo avere queste leggi di attuazione costituzionale. Finché non le avremo, non avremo delle vere garanzie all'interno dei partiti e non avremo vere garanzie di trasparenza. Vedete come si prendono i soldi anche senza controlli, perché è finita così la storia delle rate di rimborso senza controlli, alla fine se li sono presi. Però ripeto, quelle leggi alla fine nessuno le vuole. Secondo esempio di vicenda politica, oggi c'è la conferenza stampa del governo, quella di fine anno, e quindi sentiremo il programma di fine anno del governo. Io spero che qualcuno faccia qualche domanda ficcante al Presidente del Consiglio, parlo ai colleghi, anche su vicende che riguardano il suo partito a livello locale. Il mio premio Oscar, per esempio, di oggi va all'attacco del pezzo dedicato alla vicenda De Luca che c'è sul Corriere della Sera e scritto da Marco De Marco, e il pezzo di Marco De Marco dice chiaramente che in questo paese la regola generale è quella che dovrebbe vincere la legge sulle persone, e invece nel caso De Marco è evidente, De Luca, perdonatemi, De Marco è l'autore, è evidente che vince la persona sulla legge. La sintesi è che si è andata ieri a un'altra proroga della decisione del Tribunale di merito sulla legge Severino, e a questo punto tra prescrizione e tempi più lunghi De Luca ha praticamente vinto. Non ho niente contro il governatore della Campania, però è evidente che in questo caso il criterio, secondo me, che è seguito è diverso da quello che è stato applicato in altre vicende. E quindi io condivido quello che scrive Marco De Marco sul caso De Luca: ci sono persone che prevalgono sui criteri generali, per altri sembrano prevalere i criteri generali. Torniamo allora a Roma, la città che riscopre di essere per questo Capodanno per l'ennesima volta senza il numero minimo di vigili urbani, e quindi bisogna fare massiccio ricorso, in questo il commissario avrà gioco più facile che Marino alle forze di pubblica sicurezza, con enormi problemi risolti nel trasporto pubblico, polemiche che si sono scatenate per l'impossibilità di fare i controlli verso chi in giro dei blocchi entrava scavalcando tornelli e quindi senza pagare. La metropolitana ferma alle ore 13 del giorno di Natale senza preavviso, e insomma mi fermo qua perché vi ho già chiesto, telefonateci per sapere la vostra opinione, per spiegarcela. Il commissario Tronca può riuscire lui a risolvere tutto questo? Allora, abbiamo ponendoci questo tema, abbiamo deciso di chiamare un protagonista negli anni alle nostre spalle della vita romana. Oggi fa il parlamentare, fa il senatore Walter Tocci, il senatore del PD, che è stato vice sindaco a Roma nella giunta Rutelli. E a dire la verità, io l'ebook che ha scritto prima che la vicenda Marino arrivasse agli ultimi termini, quindi all'esplosione e alle dimissioni imposte a Marino dalle dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali e della sua maggioranza, ma aveva scritto un ebook di una cinquantina di pagine che io considero, ve lo consiglio davvero, Non si piange su una città coloniale, il titolo, perché ho trovato la spiegazione più critica e anche più piena di particolari di chi si pone il problema, avendo governato come ha fatto la sinistra per tanti anni Roma, si pone il problema di capire, non solo indicando le colpe della parte opposta, cioè le mano e la destra, questo lo trovate puntualmente, ma anche e soprattutto rielaborando in termini autocritici le scelte fatte allora e il fatto che poi si siano interrotte, siano state fraintese, siano state cambiate. Cioè, in questo ebook dell'ex vice sindaco di Roma Walter Tocci, ho trovato una delle spiegazioni più interessanti per me da osservatori di chi non si limita a dire la colpa è degli altri. Di colpe ne abbiamo fatto anche, tra virgolette, noi. Allora, intanto ringrazio Walter Tocci per quello che ha scritto e mi ha fatto capire su Roma, e poi per essere con noi oggi per tentare di rispondere iniziando a questa domanda che ti faccio. Ma il commissario Tronca che può fare in queste condizioni secondo lei? Beh, il commissario Tronca potrebbe fare molte cose, perché in certi momenti, soprattutto nell'emergenza, una autorevolezza decisionale può essere utile. Lo vedo invece un pochino ondivago, come i peggiori politici, questo un po' mi dispiace. In una situazione di emergenza ci vuole il blocco del traffico ripetuto, insomma, ma è una decisione anche abbastanza così tranquilla da prendere, prevista dalle leggi, senza tante discussioni. Però la cosa poi strutturale è il trasporto pubblico, è l'aumento del trasporto pubblico. A Roma siamo oggi a 90 milioni di chilometri di vetture, insomma, eravamo a 130 15 anni fa. E quindi la sostanza del problema è qui, aumentare il trasporto pubblico, però questo invece non si può imputare ovviamente al commissario Tronca, questo sarà il tema della campagna elettorale e della nuova amministrazione. Insomma, io credo che sia bisogno di interventi radicali sulle aziende di trasporto. Senta, lei nel testo, in quel testo che ha scritto, su in cui Roma città coloniale evoca poi un verso di Pasolini, evoca anche delle formule applicate a Roma da grandi storici urbanistici, dall'altra insomma da Benevolo e da Insolera. Lei proprio su questa storia del trasporto romano dice: noi avevamo delle idee all'epoca, fummo i primi in Italia a fare, era la fine degli anni 90, una gara vera per un quarto del fatturato dell'ATAC, per sì, così dire. E poi naturalmente di gara non ce n'è più nemmeno una, e adesso Roma si trova nella condizione, da una parte se deve dare una mano finanziaria al disastro dell'ATAC e delle società collegate, come fa? E dall'altra, per investire non c'ha i soldi. E allora, come se ne esce? Appunto la linea è quella che avevamo intrapreso, poi è stata interrotta e poi con Alemanno addirittura siamo arrivati a Parentopoli. Io mi sono appunto domandato come mai quei 5 anni di Alemanno sono riusciti a ridurre la città in questo modo. Evidentemente però le cose che avevamo fatto noi non erano tanto solide da resistere, esatto, a questi 5 anni di governo. Quindi ho usato un po' questo criterio analitico della riforma irreversibile. Ecco, non abbiamo fatto riforme irreversibili. Perché sull'ATAC l'irreversibilità consisteva nella totale liberalizzazione del servizio, cioè noi cominciammo, facemmo un primo passo, mettendo a gara appunto un quarto della rete. Tra l'altro io facemmo troppo in anticipo. Spiego a chi ci ascolta, mi corregga se sbaglio, che dal mio punto di vista l'interesse di quello che dice e che scrive è ancora maggiore, perché lei poi non è un aedo della liberalizzazione, cioè non è che uno che non abbia un bilancio critico a sinistra degli anni, no, in cui certo, dicevate di essere i Blair italiani, tant'è vero che ha scritto un altro book, questo è più recente perché poi lei si occupa di scuola, dedicato proprio alla scuola, La scuola, le api e le formiche, come salvare l'educazione dalle ossessioni normative, in cui insomma le sue critiche, le sue osservazioni critiche, naturalmente non il no, ma insomma le osservazioni critiche alla riforma buona scuola del governo in carica, beh, dicono questi si illudono davvero un po' in nome dell'autonomia delle aziende del privato, lì bisogna difendere un po' di più l'impianto pubblico della scuola, quindi lei non è un mercatista tra virgolette, quindi il fatto che dica per esempio per il trasporto bisognava insistere su quella strada e magari in altre aziende come la CEA, ecco, partecipate, bisognava stare più attenti a non confondere il sia la liberalizzazione all'apertura al mercato con un atteggiamento troppo condiscendente con privati troppo forti, per essere chiari, oppure sulla linea C della metropolitana promessa per il 2000, naturalmente mai, non ce l'abbiamo ancora, anche lì attenzione perché anche lì c'è un privato troppo forte e così via, quindi lei non è un mercatista, però dice lì non se ne può fare a meno se non si va avanti su quella strada nelle liberalizzazioni. Sì, queste cose da lepre nei dettagli, purtroppo il dibattito italiano è sempre stato molto ideologico, sia nella enfasi privatistica sia in quella statalistica. Nel caso del trasporto si possono fare delle privatizzazioni sciagurate come sono state fatte in tanti paesi e beh, si possono invece fare delle liberalizzazioni molto efficienti. Il problema dove sta? Nel mantenere saldamente in mano pubblica i caratteri strategici del servizio, direi le funzioni regolative, cioè la rete, le tariffe e così via, e invece mettere a gara la mera produzione industriale del servizio, cioè la guida e la trazione. Questa è un'operazione che è fatta da noi nella fine degli anni 90 su una porzione, determinò un abbassamento dei costi molto forte. Purtroppo eravamo troppo in anticipo. Eravate un po' in anticipo. Non c'erano ancora gli imprenditori. Sì, sì. Infatti partecipò alla gara praticamente soggetti che non erano la struttura per farlo. C'erano neanche gli equivalenti che poi in Italia sono gli stati più forti, dei grandi gruppi internazionali ex monopolisti come Deutsche Bahn e così via. Oggi il mercato si è aperto. Oggi ci sarebbero come. Quindi oggi questo consentirebbe in tutte le città italiane un balzo in avanti. Però lei stesso scrive molto esplicitamente, dicendo il PD, un'idea su questo, su che cosa sia un piano strategico per la nuova Roma. Negli ultimi anni, prima che vincesse la destra, si è visto nelle elezioni regionali del 2010, in cui non si capì, sembrava che poi Zingaretti dovesse fare il sindaco, invece si tirò indietro, arrivammo alla candidatura di Marino, mascherando il fatto che il PD un vero progetto strategico non ce l'aveva e non ce l'ha avuto nemmeno in occasione della legge del Rio, che lei critica, perché bisognava battersi per una regione capitale e avere un'idea appunto strategica, forte, di come mettere insieme non l'area metropolitana o i poteri mai veramente sviluppati di Roma Capitale, ma in un disegno nuovo e diverso, quello della regione capitale. Però lei dice il PD queste idee non ce l'ha perché si è ridotto a una forza di notabilato. Lei di questo parla. E quindi? Quindi io credo che al mio partito ho consigliato tre cose. Primo, avviare in Parlamento una discussione sulla riforma istituzionale della città. Per dirla in breve, oggi ci sono tre livelli istituzionali, il comune, abbiamo inserito poi la città metropolitana e la regione. Però qui il testo della Costituzione praticamente l'hanno approvato, non c'è, è rimasto tutto come prima. Sì, lei voleva anche infatti, santamente la diminuzione delle regioni, non l'abbiamo avuto. Certo, assolutamente, però è un tema che è aperto in Italia, si riproporrà. Lo stesso governo nel dibattito parlamentare ha detto che va almeno istruito, bisognerebbe fare grandi regioni, questo è il vero, la vera riforma del titolo quinto che non si è fatta, ma si deve fare, la seconda... è una regione più piccola che è la capitale. Quindi invece che tre livelli, una sola, un solo livello, una regione capitale. La seconda è promuovere una grande lista civica di centrosinistra, con tutte le forze migliori della città, tutti gli innovatori sociali, economici, culturali, un'assemblea di un centinaio. Perché lei riconosce che in realtà anche nel fermento marino, sia pure nel fatto che per il PD fosse, insomma, arrivati a quella candidatura mascherando tutte le debolezze strategiche, c'erano però una leva di amministratori dal basso che non è da buttare via. Certo, quindi fare una lista civica di centro-sinistra che promuove una nuova classe dirigente, insomma. E nel frattempo il PD, rinunciando al proprio simbolo, si dedica a se stesso, a rinnovarsi, a fare il vero Partito Democratico. Perché il paradosso di questa vicenda romana è che la politica di centro-sinistra è stata all'avanguardia a livello nazionale con Rutelli e con Veltroni, tant'è vero che sono diventati entrambi candidati premier. E poi quando abbiamo fondato il PD nel 2007, come dire, dovevamo andare più avanti, invece siamo andati indietro. Quindi io dico nel libro che il PD non è mai nato nel senso di un partito democratico, riformatore. Lei dice, non so come è mai nato, lei dice che ha dissipato parte dell'eredità dei DS nelle periferie, certo, sì, spiega, sì, che nelle periferie, nato, spiega quando si è trovato in alcune occasioni di fronte all'irruzione mezz'ora prima della scadenza delle possibilità di iscriversi per votare a Borgata Ottavia, sì, certo, quindi come vedete, l'ho letto davvero, mi è piaciuto davvero, per così dire. Grazie, no, ma anche perché io poi quindi, a Roma sto per anni. Quindi è un partito che deve ricostruirsi parecchio, ecco, questa sì, è la mia sì, opinione. Non basta un po' di vernice, ecco, questo è il punto di fondo. Beh, diciamo che ad esempio il rapporto Barca è molto utile, è anche un esperimento importante, un partito che fa un'autoanalisi così approfondita. Allora, però adesso bisogna passare alla parte consueta. Io mi auguro che, insomma, questa vera chiamata serva parecchio a far leggere quelli. Perché? Perché molti ascoltatori stanno dicendo propaganda PD. No, scusate un secondo. Io vi ho proposto questa cosa perché un libro così autocritico sui limiti e gli insuccessi che spiegano poi Mafia Capitale, il notabilato, gli affari, eccetera, a Roma, l'ho trovato da parte di un ex vice sindaco della sinistra che oggi fa ancora il parlamentare PD. Non l'ho trovato da parte di leader della destra. Allora, siccome a Roma il casino, cui Tronca può tentare di dare qualche soluzione, ma auguri, è tale ed è talmente forte il rilievo nazionale che solo con una fortissima capacità di autocritica, di lavante, usando l'acido nella parte di chi ha esercitato responsabilità politiche negli ultimi anni, si può riuscire a produrre progetti all'altezza. Altrimenti si va di casino in casino, capito? Questo è quello che penso io, lo dico con passione civile, non perché tipo per una parte o per l'altra. Io per questo ringrazio Walter Tocci, secondo me nel libro lui dice comunque è un'idea della destra demonizzata, però parliamoci chiaro, la destra che ha governato Roma, ma ha qualcosa di buono da poter vantare come bilancio? Scusate, la mia risposta è no, e lo sapete da anni, non è che me lo invento adesso, e non perché sia del PD, perché non lo sono. Grazie a Walter Tocci, sentiamo come la pensa su questo Rocco Andrea che ci chiama da Treviso. Pronto, Rocco? Pronto? Eccoci. Sì. Allora, io frequento Roma da diversi anni, sì. La trovo una città con delle potenzialità pazzesche, meravigliosa, gestita sempre peggio. Purtroppo è una cosa che mi lascia ogni volta con il magone quando riparto e vedere le municipalizzate che sono allo sbando, in cui la gente se ne frega totalmente. L'ATAC e l'AMA sono state devastate dalla politica, dai manager della politica, da Parentopoli. Sono le due peggiori municipalizzate d'Italia da anni, nel rapporto annuale di Mediobanca. Quindi io veramente lì c'è bisogno di un pensiero strategico, perché altrimenti col day by day e con l'ordinaria amministrazione non si va da nessuna parte. Alessandro da Roma, come la pensa Alessandro? Eccomi qui Oscar, buongiorno. Buongiorno. Io volevo solamente dire che a Roma tutto è stato governato solo esclusivamente in maniera semplicistica, mettendo a capo delle aziende municipalizzate persone che non erano in grado di gestire neanche un condominio o una semplice famiglia. Questa è la verità. E bisogna però non dire solamente privatizzare, no, perché no, secondo no, me no. Una parte del pubblico deve rimanere pubblico. Sì. Io sto dicendo che lì non si fa con i colpi di spada, sono d'accordo, infatti esatto, mi è piaciuto Walter Tocci che ha provato a liberalizzare. continua a dire liberalizziamo ma senza perdere la visione strategica. Io questo lo capisco, non sono un ideologo del mercatismo e basta. Allora, grazie Alessandro da Roma, continuate con Radio 24 e vediamo se Renzi oggi fa come Putin, che ieri ha regalato ai politici e ai diplomatici i suoi discorsi dicendo, titolo, parole che cambiano il mondo. Bah, continuate con Radio 24, va?